voglio farmi una porca, sì, insomma una suina, ma proprio buona, tipo Giorgia Surina. Però mi accontento pure di una normale, perciò se vuoi chiavare fammi uno squillo. Però la figa te la devi depilare, se no dall'alto pare Beppe Grillo, un grillo parlante che spirta parolacce, cunilingus ma propinque, ci faccio le boccacce. Su di e tarraffi, mi graffi la schiena, anzi miei gemiti, ma è tutta scena, brutta scema. Tolgo il condom e ti inondo, tanta crema, mi sporgo e ti sporco. La Fabrera ti fotto dal fianco come favela, ho il cazzo di un nero tipo Varela, ti porto in favela o in barela, poi ti faccio sparire la fiela. Fila fisarmonica, quando muovi l'ukulele, e tu lo sai che mi prende bene, dipende da come lei mi prende bene. Mi piace la fila, fila fisarmonica, quando muovi l'ukulele, e tu lo sai che mi prende bene, dipende da come lei mi prende bene. Ci sei tu che mi parli dal cordless, e già mi ti immagino in topless. Non me ne volere se dopo un tot di stress passo la serata con una top class. Altro che FIFA e PES, figa e best, binomio perfetto the best. Me mi cama poi your chest, ma senza fretta ti porto in Spagna e mi fai una spagnoletta. Ho rime banali sugli anali, non sugli annali, sulle mani peste rime sciocche e zozze. Ne ho di tonno per Lola Ponce, rime porno di cose sconce che spongono. E ho una marea come un mobile Ikea, ti monto, ti apro, scatola di tonno, ti infilo il crongo mentre il sorseggio di Saronno. Mi piace la fila, fila fisarmonica, quando muovi l'ukulele, e tu lo sai che mi prende bene, dipende da come lei mi prende bene. Mi piace la fila, fila fisarmonica, quando muovi l'ukulele, e tu lo sai che mi prende bene, dipende da come lei mi prende bene. Mi piace la fila, fila fisarmonica, quando muovi l'ukulele.